Non mi basta, non mi basta, Madre Blu. Non so se vi è mai capitato di ascoltare con attenzione questa musica, anzi principalmente di ascoltare con attenzione quelle parole di questo gruppo, le parole delle loro canzoni. L'album è eccezionale e se avete bisogno anche di fare un minimo di meditazione, approfittatene, perché vi assicuro che con loro viene benissimo. Però qua in un momento di ansia, di particolare stress, provate a chiudere gli occhi, mettetevi lì da parte in un angolino e fate entrare questa musica dentro. Grazie a Fergal Kavanagh, Tam Tam Europe. S-P-O-T, Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and welcome to Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e oltre, in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, the moving station. E la nostra redazione di Londra ci segnala molto attività per i REM. A parte i nuovi brani che hanno registrato per la colonna sonora di Man on the Moon, stanno attualmente lavorando su un album intero di nuovi brani. Ma se questo non bastasse, Michael Stipe sarà ospite sul nuovo dischi di Utah Saints e di Patti Smith, che ricorderete ha cantato sul singolo dei REM, Ebo the Letter. E il chitarrista Peter Buck suona sul nuovo album del gruppo americano The Eels, che sarebbe in italiano Le Lamprede. Poi è stato trasmesso in America un intervento degli REM su Sesame Street, un programma degli Muppets, nel quale ammettono di essere divertiti molti. Dice Mike Mills che non si può non parlare con gli Muppets come fossero vere persone. Da Tam Tam Europe on Radio Tour, the moving station, vi saluto e vi invito a visitare il nostro website www.radiotour.it. E da Fergal Kavanagh questo è tutto. Vi lascio con i REM e Lotus. Alla prossima. Tam Tam Europe. con Larus su Radio Tour The Moving Station a chiudere quest'altra pillola di Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra, ce ne sono tre ogni giorno, due di pomeriggio e due nel nostro appuntamento della sera con Harry. Ti presento Sally tra il lunedì e il venerdì. Se anche voi volete consigliarci quali dischi passare nelle pillole di Tantam Europe o per vostre curiosità, potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica di Fergal, che risponde a fergal@radiotour.it. Fergal con una sola L, chiaramente. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, messo in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, the moving station. La nostra redazione di Londra ci segnala che è stato scoperto che Lara Croft, la star del Tomb Raider, è di origine scozzese. A marzo esce un nuovo avventura nel quale l'eroina torna in Scozia a cercare le sue origini. Incontra un Highlander e scopre la verità sul mostro di Loch Ness. Finalmente quel problema sarà risolto e chissà qual è la verità. Dobbiamo aspettare solo qualche settimana. E sul Tam Tam Europe vi voglio fare sentire un gruppo scozzese in onore di Lara Croft. Però prima vi saluto da Londra e da Fergal Kavanagh, vi ricordiamo di segnalarci i brani da ascoltare al 081 790 14 11 o di inviare un messaggio al 0348 24 38 888. Questi sono i Marillion con Deserve. Alla prossima. Tam Tam Europe. Of Rock su Radio Tour The Moving Station, grazie alla nostra redazione di Londra, in particolare Fergal, questo bel disco dei Merion, che poi sono, sì, non so se vi ricordate di Kelly, un altro grande successo. Sono le 21:16 su Radio Tour The Moving Station, riprendiamo la linea dopo il collegamento con la nostra redazione di Londra e la nostra sede centrale, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito dopo con un altro bel disco. S-P-O-T. Spot. Radio Tour The Moving Station. Present. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody.